Titolino! Mi sono procurato il testo perché è un po' di anni che questo pezzo non lo faccio, comunque volentieri qui con i frammenti. Penso che mi prendo la libertà. Mi prendo la libertà a nome di, anche dei frammenti di dedicare a Sandro che ha compiuto gli anni ieri e a tutti quelli insomma, della vecchia generazione che quelli che ascoltano ancora questo genere di musica. Penso si intitola Metropoli. Grazie Sergio, grazie Sergio, e un augurio altro.